Radio 24 Reportage. All'inizio del secolo scorso, Milano ha visto nascere il futurismo. Così, per il centenario di questa corrente artistica e non solo, si è trasformata in città futurista, ospitando una serie di manifestazioni di teatro, danza, cinema e moda e l'importante mostra Futurismo 1909-2009, velocità più arte più azione, presso il Palazzo Reale, che si è chiusa lo scorso 7 giugno. In questa occasione è stata registrata l'intervista che state per ascoltare. L'automobile e i marinetti. Il loro non fu proprio un idillio. La mattina del 15 ottobre del 1908, scrive Giovanni Lista sul catalogo della grande mostra a Palazzo Reale a Milano, il giovane e ricco poeta, sempre impeccabilmente vestito, si reca in viale Monterosa agli stabilimenti Isotta Fraschini, dove acquista una cabriolet tipo BN4050 di gran lusso. La macchina può raggiungere una velocità di 80 km orari. Impettito e raggiante, Marinetti si fa fotografare al volante della vettura. Ma in via Domodossola la macchina si capovolge in un fossato pieno d'acqua. Marinetti riesce a salvarsi solo grazie all'intervento di alcuni operai. Da allora non guiderà mai più un'automobile né una motocicletta, così come non cercherà mai di imparare a pilotare un aeroplano. In tutta la sua vita è il cantore futurista del progresso tecnologico e della nuova civiltà delle macchine. Ha guidato un'auto per poco più di un chilometro, finendo fuori strada. L'automobile, declinata al maschile, simbolo del futuro e emblema del futurismo. Ma anche città, oggetti di arredo, abbigliamento. La ricostruzione futurista dell'universo, firmato da Balla e De Pero, è uno dei molti manifesti che seguirono quello di Marinetti. Vi si esprime il concetto di ricostruire l'universo rallegrandolo, ricreandolo integralmente, scrive De Pero, trovando l'equivalente astratto delle forme degli elementi e combinandoli insieme secondo i nostri capricci e la nostra ispirazione. In mostra a Milano ci sono alcuni esempi del mondo che i futuristi immaginavano e in parte costruivano. Valerio Terraroli ha curato l'allestimento. Ha selezionato oggetti come vetrate policrome, terrecotte, servizi da tè, vasi e manifesti pubblicitari. Oggetti che definiscono i futuristi come artisti a tutto campo. Tengo molto, come dire, a sottolineare il fatto che nel 1915, quando viene appunto pubblicato il manifesto della ricostruzione futurista dell'universo, i due firmatari sono Balla, futurista della prima ora, e De Pero, che si firmano artisti futuristi nel loro insieme. Quindi è questo il loro impegno, cioè di essere artisti a tutto campo, sia nelle arti cosiddette maggiori, se vogliamo usare questa vecchia e stantia definizione, cioè la pittura e la scultura, sia nelle arti decorative, cioè del quotidiano. Negli anni 10 e 20 la parola design non esisteva ancora, ma era in quegli stessi anni che gli artisti e gli architetti del Bauhaus in Germania cominciavano a rivoluzionare i concetti di estetica, a creare quegli oggetti di arredamento che oggi sono ormai di culto. È molto importante pensare e ragionare, vedendo anche la mostra, spero che questo si capisca, che i futuristi non sono un'esplosione di un fenomeno che non ha ragione, come dire, altra se non quella di un percorso storico, dal simbolismo al post-impressionismo fino al divisionismo, eccetera. In realtà sono immersi inevitabilmente dentro quel grande cambiamento epocale della cultura mondiale che è il modernismo. Il modernismo è costituito dalle secessioni, Vienna, Monaco, Berlino, il Werkbund tedesco da cui poi nasce il Bauhaus per esempio, il movimento De Stael olandese di Mondrian, i movimenti dell'avanguardia russa, tutti questi insiemi di movimenti, di situazioni sono come una specie di grande gigantesco paiolo in cui bolle la modernità e loro hanno straordinariamente la capacità di cogliere questa novità e di proporla con un linguaggio nuovo che è quello che noi chiamiamo futurismo, ma sono figli della loro epoca e quindi sono assolutamente in sintonia con ciò che succede anche in altri luoghi. Il Bauhaus è uno dei riferimenti, sicuramente. E nel campo delle arti applicate, la ceramica rappresenta una delle terre di esplorazioni più battute. Basti pensare a quanto fecero Picasso o Braque con gli artigiani di Vallorissi in Costa Azzurra. Qui è il nome di Giacomo Balla a comparire sulle piastrelle di Faenza. Certo, ma perché? Perché la ceramica innanzitutto? La ceramica è un materiale poco costoso, di diffusione gigantesca, popolare. Quindi è il materiale con cui si fanno i mattoni, si fanno le tegole, si fanno i rivestimenti delle case. L'idea di Balla, e probabilmente non so quanto Marinetti lo abbia indirizzato su questo, ma insomma certamente la sua aveva già cominciato a Roma a pensare a questa operazione delle piastrelle di rivestimento, è bene, porto il futurismo nelle case di tutti attraverso qualcosa che non è il quadro o la scultura, che non tutti possono permettersi o necessariamente avere in casa, ma metto sotto gli occhi dei quotidiani di tutti l'idea futurista dello spazio. Ecco le piastrelle di rivestimento, ecco i servizi da tè, da caffè, che non sono banalmente soltanto per bere il caffè o per bere il tè, ma per trasformare i modelli di vita. Per cui Balla disegna, progetta forme e decori, e poi ci sono i ceramisti, il cui compito è quello di eseguire, anche con delle capacità di invenzioni, questi progetti. La prima è Faenza, e la manifattura di Riccardo Gatti è quello che con Balla ha una stretta coesione. Ma poi vediamo la diffusione di questo sistema, per esempio al Bissola Marina, dove ci sono manifatture già da secoli, dove la manifattura appunto di Giuseppe Mazzotti e dei figli Tullio e Torido si specializza proprio nella ceramica futurista. E la cosa interessante, io credo, spero che insomma, un po' emerga dalla sezione di questa mostra, è che all'inizio i futuristi, compreso Balla, non si pongono tanto il problema, che invece il Bauhaus pone, delle forme, cioè interessa più il decoro pittorico, per cui per Balla non è scandaloso che un suo decoro, per esempio da Futur Balla, vada su una forma, come di tradizionale, di coppa o di vaso. Il problema della forma nasce negli anni 30 ed è infatti Tullio Dalbissola, cioè Tullio Mazzotti detto Dalbissola, che inventa delle forme futuriste insieme a Dulgerov, per esempio, che è un artista bulgaro che si trasferisce a Torino e va a lavorare ad Albissola, ma guarda caso aveva studiato al Bauhaus, e porta le forme destrutturate, cioè gli oggetti si spaccano, si trasformano sia nella forma fisica sia nel decoro. Allora quello è davvero qualcosa di assolutamente nuovo. La funzione nella forma. La funzione della forma, assolutamente, la compenetrazione nello spazio, e quindi di conseguenza, e parliamo delle ceramiche, ma potremmo farlo per i metalli, lo possiamo fare per i tessuti. I materiali, il ferro, il vetro, la trasparenza, la lavorabilità affascinano i futuristi che si lanciano nella progettazione di oggetti che reinventano la tradizione. Di nuovo Valerio Terraroli. Marinetti, visitando la mostra della ceramica a Faenza, dove c'erano le ceramiche di Balla che abbiamo detto prima, del 28, preso da entusiasmo, disse e commissionò l'idea di fare una mostra tra il 29 e il 30 di ferri futuristi, oggetti di ferro per la casa futuristi, e chiese a Balla di progettare dei pezzi. Non abbiamo testimonianze documentarie, però Balla lavorava in quell'anno appunto da Gatti. Gatti era in rapporto con questi fabbri maestri del ferro battuto. Il pezzo è in realtà un'elica da un aeroplano, perché si vedono appunto le saette del motore che escono, e anche l'uso dell'alluminio era proprio di quel momento lì, e poi i vetri visti dal basso sono proprio le eliche che girano. Quindi insomma l'ipotesi è che ci sia questo intervento particolare di fusione tra un'idea, diciamo, di compenetrazione dello spazio balliano e le tecniche invece del ferro battuto tradizionale, insomma. Se c'è qualcosa che rimane nell'immaginario collettivo, nel senso proprio di patrimonio condiviso di immagini, sono i cartelloni pubblicitari futuristi. Quello del Campari o della Magnesia San Pellegrino, disegnati da Fortunato De Pero con il suo tocco divertito. Anche perché quella stessa estetica la si ritroverà negli anni successivi con le creazioni dello studio milanese Bolgeri, in cui lavorò a lungo anche il grafico svizzero Max Huber. Assolutamente, ma devo dire che ai futuristi, e in particolare a tre figure che sono Fillia, Dottore è certamente il più importante, De Pero, si deve proprio questa straordinaria capacità di aver forgiato un linguaggio della fiche pubblicitaria che vale sia per i prodotti commerciali, ma vale anche per gli eventi, vale anche, e poi era un esercizio che loro stessi mettevano in campo per i manifesti. Quindi insomma l'idea che la parola e l'immagine sia il veicolo di comunicazione più immediato per il pubblico più largo pensabile. L'idea di applicare nella vita di tutti i giorni gli ideali del dinamismo e della velocità si riversa dunque nelle forme, delle case, delle cose, delle macchine. Oggetti che oggi ci appartengono, noi magari inconsapevoli, ma che racchiudono un sapere e un'invenzione che ci vengono dai futuristi. La parola conclusiva a Valerio Terraroli. L'elemento futurista del bolide in velocità è l'elemento, come dire, dirimente proprio nella scelta delle forme delle macchine, perché la macchina sempre di più perde quello che era l'autoveicolo d'inizio secolo per diventare una forma che taglia l'aria, che la attraversa come un proiettile, dove i colori, per esempio, penso al rosso della Ferrari, è il colore della dinamicità, dell'irrefrenabile volontà del moderno di andare avanti senza freni. E quindi questo certamente ha influenzato molto, credo, del design non solo dell'automobile ma delle motociclette, per esempio delle biciclette, visto che ai tempi era quello. Banalmente posso pensare che persino la Vespa ha a che fare con quella dinamica lì, proprio perché l'idea davvero di un oggetto che ha una sua utilità, e la sua utilità, la sua funzione diventa una sua forma, e la sua forma è lo spazio. Ma c'è una presa di coscienza di questo uso del materiale futurista, o lei pensa che sia diventato progressivamente proprietà intellettuale di chi disegna? Io credo di sì, io credo che sia penetrato immediatamente, e infatti mi sono un po' divertito nella sezione arti decorativi a mettere dei pezzi di artisti che non sono per niente futuristi, quindi magari può risultare fuorviante. Io ho messo dei pezzi di Gio Ponti, dei pezzi di Balsamo Stella, dei pezzi di Genazzi, che è un argentiere milanese. Uno dice: ma questi che non erano futuristi? Certo, non erano i futuristi che hanno firmato il manifesto, non sono i duri e puri, diciamo, ma sono quegli artisti designer, quei personaggi che vivevano contemporaneamente i futuristi negli anni 20, negli anni 30, ma potrei fare gli esempi degli anni 50, i quali in realtà non avrebbero mai dichiarato di sé di essere dei futuristi, perché la loro scelta ideologica era alta, ma non hanno potuto fare a meno di fare i conti con i futuristi, e hanno assorbito dal futurismo quegli elementi dello stile e quel gusto della novità, della modernità, dell'essenzialità, dell'ironia, del gioco, che ormai era inevitabile. Cioè, quello che avevano fatto i futuristi hanno fatto virare il mondo da un'altra parte, e a quel punto nessuno poteva non fare i conti con loro.